da Dio. Vabbè, oh mio. C'ero qua. Ho pensato a tante funzioni. C'era l'altro, un po' vecchiotto, Cioè, nel senso che sono c'erano tutti. Quella è questa cosa. GPS, boh. Cazzo è. Bluetooth GPS. Quello è bene foto anche. Sempre, sempre, quasi verso che ho, mi sono fatto abbassare. parte. Quando sento così, cade scuro subito. Naturalmente da lui. Me la metto già. Ma lui ha di mia capa da risa, confessa già. Ma comunque c'è stata anche un'altra cosa, l'altro lì. Che quel giorno e anche altri giorni c'è stata. Che cosa abbia fatto? Non mi sono fatto nulla, che cosa, che bello. dammi il numero di telefono, almeno concludiamo. Così in bianco non va bene, lì. Ma quello c'è la radio, dice questo è il gas, se l'hai detto pure a Gianni che pure lo utilizza mai va via, che c'è la tendina serranda, no? Ho già cacciato manco un cane in tutta la sera, di questo bassegno, io. Pontiac, sono in truccia sparata, fino a martedì. Cazzo, la fai ce l'ha la ritirella di questo altro! arrivato di male di lui. Che bella gara! Oh yeah! E allora, cosa cucinato un paio di cosce di pollo arrosto, insomma già ho mangiato bene. Chi è?

tutti e sei a posto. Sento bene, che magari non senti a te, che se non ti sentiamo noi, allora, oh ya, va benissimo lui, come fa, come fa? Senti, la latta che la latta non fa, di noi è già passata, cazzo, 25 di più, cazzo, oh! No, avanti, se è passata lontano, io sa che me l'hai passata lontano, ma evidentemente a te non mi passa. Vediamo un po' se per Pierpaolo ancora in giro. Pierpaolo, aiuto! Dai, Pierpaolo, la guida, dai, non credo comunque, ma la sera a tutti. Ok, ma sta a caso a Pierpaolo, con te, è con me, quel. Ah, ok. Ha messo la rapida per un caffè. Allora? Per di me. Mi divido una sapassi via, appunto. Ok, riprenderà là. Va bene, sono fatto, vai. Avanti, la calice. Io devo fare un qualcosa adesso, vi lascio momentaneamente, già rientro dopo, va. Se ci siete. Per il momento rimango in stand-by. Vabbè, lo riprendo io, va. Allora, avanti, per pacchetto, va che dai. Ma chi si è caduto la gandria, riprendi... Ma grazie, a ripreso il fare. Ehi, ma perché la cucchiata all'interno non è in garage ce l'hai? Stanno parlando. pagata di reggere, abbassi qualcosa, voglio entrare. Sì, sono che volevo rientrare, vai. Salutiamo a tutti, anche a Gigetto, se lo assunta, perché io non lo sento, Ciao, Fabio, io già ti ascolto, rispetto, devo andare con faccia la Ah, lo sento piccolino, cosa ha detto? Che lui dice tutto chiuso e lui già si sente bene, capito? Ah, comunque lo copri, lo tiri fuori, più ma lo senti. Io più lo sento, va bene, saluto la parte mia, no? La parte sua. Ciao, ok, dai, adesso mi hai sentito, dai, perché sono sempre passo passo qua, capito? In questo passaggio mi avrei ascoltato. È chiaro, salutone, Gigi. Io, dai, salutone, dai, ok. Allora, ascoltiamo, buongiorno, alle 5:04, non è mattina, ok, alle 5:04, Non c'è problema, sempre pronto. Tappa di lei, ti fai un ghiaccio. Avanti si fa ora, già la sento più, riprendi Giammari. Ok, chissà, un di so guagli sola lui, dico manco qua, ti sa un di so io, e gli sa cosa sono cuffenda di sola, proprio, grazie, tu sei a cura pura. No, ma già non mi butti, mi ne penso fisso. Ti devo andare, chissà, la musica è messa, ma ci posso la sveglia. Domani mi rivolgo l'accusa, e già mi arrivo se non ho l'accusa. Piatto un casino che non finì più. Facci piano, grazie, facci piano, ma poi si incazza e ti fa di male. Ha chiesto la strada, ma ha detto, non lo so se c'è, se è sicuro, non lo so. Lo gioco, domani arrivo. Ma, vabbè, ma non è che andi che ciucchino la grande, aveva 16 mesi, l'ultimo. No, faccio come sotto, massimo non gli vedi passeggiare il zetto, anche la brutta banda a fare niente per bene. Ah, ho capito, e allora bisogna andare, cioè. Vabbè, e allora devo fare con Mr. Kitty, saluti. Anche se ho alzato tanto questa persona che vai a fianco, che saluti si compete la filibonie, vedi che ti fate brincare un cuore. No, che mi fai la copertina, chiatica, avanza, ma tu, curori, celestina. Hai te, celestina? La voglia l'italiano, fendi, va bene. Avanti, facci avanti. La commessa fa un giorno per prendere via, guardiamo suo marito, così si dà il caso. Fai da senti calore, l'hai chiesto? La di qua te la dici che senti calore, vedo. Dici che senti dritto, dici ciao, ti buon pezzo di se non mi rimuore. E anche se vuoi dare qualche fascio, no? Si fa caso. Vediamo, fai a fresco, ciao, se no c'è quella roba fuori. Riprendi lui, riprendi, il giocattiano. È sempre in un... sempre su là, due. Molti ieri, senti. Senta che vai, grazie. 54. 44. 54. 54. Ma che lo 54? No, non devo scoprire 54. Come si chiama? No, se fa che tu dicevi fa vedere due cose, Luigi Vulcano. Ah, salutoni, Vulcano e Falsetto. Così è Giovanni, caro se ti ruga pure al balcone, non ce l'ha preparato. Infatti, adesso ha detto, che mi serve la commissina, ma ti sei già fatto fuori. E ha detto la famiglia italiana, se fermi. Ma te l'ho già anticipato io, chissà non ti competta niente, non si che è imbricato la macone. Ti vedo tornare a Ehi, freddoli due. Sei piccolo ragazzi, non ti da fuori la pappetta, il rinfresco. Non è possibile, ragazzi. I peli lui. Ma sì, allora quello io lo butto con la ciliegia. Così l'ha visto, ma ti ne mattiesi che? Ecco, mi sei di dire, l'ha visto. Mi è entrato come curioso per un cucciarino. Allora voi, manda e mi dite che la dammi drummia a me. Senti, sai che di buono io l'ho fatto a comprendere, vabbè, è fusoio, è una d'aiuta, Allora, papà si può asciugare, tu ti l'ha affidato di una sua maniera, e a me con la ciliegia. Edu, che colore l'ha pigliato, Ru? Sempre così, come se tu hai detto, ai ai. Allora, non ci vuoi. Ma è l'estate che glielo fa fare, capito? È l'estate. Però mi pare che tutto molto, ma un canapaia così non musicheggia, E allora, io non credo, suo marito. Anche da togli l'uovo per fare, se si fuggi. Proprio lui appella. Lascia con Pedro. E ci sentiamo alle prossime. Vai Roy a salutare il vulcano. Salutare il vulcano, ben sentito e saluto la tua famiglia, va? Grazie, saluto a Ciao, Luigi, ciao, ci sentiamo. Capito me la faccenda Roy, il ciuglattiano, ma è poco barroso, ti frequenta i cucini, mia moglie così, mia moglie là, la voglio troppo bene, mi vuole troppo bene, per forza è lei, dice, è lei, così che io la voglio troppo bene. Rientrato sogno, chi ha dato via domani? Il vulcano. Ah, chiuso, e lei che voleva sapere l'Italia? Luigi Vulcano. E tu lo gradisci di vostro 20. Ah, me l'ha detto tuo moglie. Ok. Ehi, dimostro 20. Allora, vedi, riprendi qualche. Ma qualche cosa di tu e sarà un drummimi. Chi sono di tanto banca? Si sarà truccato come ti fa di Mario. Ma che si trucca qualche? Come gioco, ti sei andato a fare, Mario fa di così, no. E Mario, un mandato che entra in bagno, cazza, dammi uno solo, scatta, e la famiglia mamma, parte nella fila che ha la bottiglia fare il bagno, perché quando si entra giù non dice più, Era andato a roccarsi, profumato tutto quanto, si pure le unghie, buono, prende il bagno, così che è messo tutto profumato, unisce, che e così allora fa il pacchetto. Abbiamo si vuole pure la crema della notte, del viso, delle mani, E ti dà di fine allora, Ti dà di fine. Fai l'appuntamento, gli dico ma con qua ci andiamo a andare con Luigi Boccaro. E tu si vede che si limpia il dito, ma te sì, allora si vuole la calamità. Fatti di vedere, ammazzare l'ora. Certo, da lì si cuva con quattro, c'è la banda a travagliare. Io dovevo anche di ne pensare all'inizio, io Vulcano di ne pensare all'inizio, sì, si andava a Cagliari, di ne pensare all'inizio, sì, ma va, e chi tu, chissà se te la vedete, però di ne pensare all'inizio, a chi... Ma poi che è troppo freddo, allora andiamo a fare le casine, preso come andava a pizza, allora si può lasciare la metà. Cioè Mario, noi ti abbiamo dimenticato di una cosa, ma non sai che rimane la cupola di una sola cupola, e il video, che ha detto, mi sa che diventa la cucciupita, ha detto, è una sua cosa dove ha cucciupito. Ah, ti ha comprato la crema, ma è da bene, evidentemente con tutta lucida, lucida, lucida è. Allora, ha visto quando passa il visino, allunga la mano. E allora, ti fanno una cosa la scena di cupola, e lei ha fatto battu, la patatista giusta che sei tutto quanto caduto. La grazia, mi meraviglio di te, ma forse con questa temperatura, c'è un figlio di casa, Graziano, certo, no, allora ti ha fatto un po' calontano, Sai passare un po' quel calotto. Sì, con cattivo, con prendere una culla e non si può dare la culla, che è la vacca, è separato, ci cazzi, ma di un mezzo. Sì, là tu, che fosse l'occhio, a dici, a tutti i piedi che presi che ce li ho a me, ti siede, dai. Ma, e la cattivocrisia va a te, ma io credo Dio a essa che è a te, mi grazia, e io dico la verità, non sto offendendo. E allora io tutti i gesti oggi ti vuoi dire, io questa vicina oggi e non l'ha voluto, ma di tu mai ti ha tenuto questo? Beh, infatti, di questa cosa non le piace a essa, che è già... grazie, e poi mi hai dato pure una cariaglia, non lo so anch'io, la birra alla banana, alla cioccolata, boh, a proprio la cariaglia. La di Briado, visto che è cinto, me la di Briado, mi pare che era alle pesche. La di dice, lo vuole ammazzare il vino, la carità mi ha guagnato io tutti e due. Vediamo un po' se rientra il mattanino. No, se sapessi per Pierpa, Pierpa, pacchetto. Sì, mi chiamo Marito. Ah, sta cazzo di chiamano vicino mai, ma coccati le rambe, che andrà di tu boccare da coccati. No, sono fatto un attimo di cucina, Gio Marito. Ah, ecco, non capisco. A chi? Grazie a me, vedete, grazie a me, diceva se prorocchetti, si commette Mario. Un attimo, bene, sto uscendo, Gio Marito. Ah, stai uscendo bene, ah, va bene adesso. Va bene! Zappa zappa, bene. Allora, che si dice? Che si dice? Io mi pongo un microfono verde, un buono, capito? Sarebbe più il 5 mia, non sai come diciamo questo apparecchio, una cannonata, perché la radio qua è bellissima, Poi se mi vuoi super amplificato mi ci bimba ancora, A che invece è bella la radio? Ma è che mandava quando gli abbiai, Sì, ho capito io. Sì, ok, ma vai, è buona la radio. Vero, grazie. Staffa, è buona. Che parla chi noi, un po' di canali qua. 84, 87, voglio dire. Ah, ah. E io mi sapevo che lui vuole portare le 40 canali, via. Però è solo AM, 40 canali, un portatile, ma è ovunque, funziona che è una meraviglia, hanno già messo. Aspetta un attimino, sono che rientro subito, un attimo di bianco, non c'è niente. Va benissimo, grazie, va benissimo. Va benissimo, ottima radio, ottima. Oh, parli che si alterna, chi fai tu, sta radiale, parli che si scende bene. E scende un bambino, grazie, per cui è una meraviglia, così che è tranquilla e pacifica. Sì, non ti devi lamentare, ma chi fa l'antenna chi fai e scende troppo bene. E poi l'apparecchio va bene, così che non vedo più niente, che sì. Questi sono gli nuovissimi, perché poco fa ci avevano zodiaci, però ho sentito colpi che stavano soprammobilando e ho fatto quello, acceso questo. E però domani mi lavo con un'avventuria e quella lampadina là dentro, a vedere, perché la lucetta dello smister si abbassa e mi lampeggia, capito? Poco a poco, però si abbassa un bene, a quanto vero, quando sto modulando. Molto caldo, venne. Ok. Sei cavannina, basta una di che minore Brunini, ma minore però. Una minori e la lasci così. No, poi lo dici mani, bisogna che si minorete, chi si andare bene? Non dati fastidio, ci assorbe di manco un burro, capito? Così che anche la dimensione è troppo minore, poi sta parecchio. Mi vuole certo tampera, allora sì, si rende bene. Ma così non ti rende, capito? Così che l'apparecchio ne può scuro soffrire. Invece quando tu vai all'alimentazione come ti svegli, sta tranquillo che si vive ancora, ecco. Se scende bene, ma si vive ancora. Ok. Bene, grazie, io ne approfitto, dai, che sono già molto abbassati, io arrivo da ancora a Zacco, non accendo più. La domanda va, che devo. Se vuole mi scegliere, vado a fare una pizza, ma a mangiare un cortile che si riesce chissimo a te. Per cui l'approfitto, dai, grazie. Semplicemente serata, saluta amicale, a Russi. Grazie, stendiamo, grazie alla chiacchieratina. Saluta la pacchetta quando rientra. Chiudo con la buonanotte, dai. Ciao, Giomani. A domani, ok. Giomani, chiuso, dai. Maria ha chiuso, salutoni, a domani, a chi domani deve andare a vista. E ne approfitto anche io, perché domani devo andare lo stesso a fare dei prelievi, devo andare preso. Ciao, qualche salutoni al Correa, buona carica quando la fai. Ci sentiamo domani, là. Ciao. Ok, grazie, buona carica anche a te, salutoni in famiglia, dai. Volevo controllino se era possibile. Sta dicendo bene, bella pulita la radio, chiara. Grazie, rinnovo i saluti, dai, tutto domani, dai, salutoni con tutto la tua carica, dai. Ciao. Dimmi, per fare. Se mi confondo il giorno adesso, tu lì. Ma poi non sei usato, sto con me. Roger, aspetta un attimino di bianco, riprendo subito, due secondi. Preparazione. Cosa c'era? Preparazione. fatto lavorare. Thank you. denuncia. No, negativo. Beh, va bene. Io adesso provo a parlare con quello, se mi si parla solo l'antenna 4, capito? C'è l'antenna? No, che si mette con la BF. Beh, non si prende le altre magari e metterla nell'altro. Aspetta che faccio un cambio, allora, due secondi, e poi si sente questo, per vedere se c'è... Adesso vediamo, dai, aspetta che cambio l'antenna. Grande. Proprio lui. Sì, dimmi. Che Paolo sono? Pierfra, beh, mi senti? Dica di certo, buono. Come va questo apparato? Io posso di segnale. Qua la radio, ma 5 non trovo, ma 4 sì. Però siamo abbastanza accettabile. K-K. Un regalino stamattina. Presto, presto. No, ma chi è che ti fa questi regali a te? Io dico Babbo Natale, ma è un grandissimo amico. Ma perché? Ma va bene anche quello. Ma quello che è le bande laterali? Qua c'è un sacco di tastini, però non ne capisco un H. Casomai lo scendo giù a tua bottega H e così lo vediamo insieme. Lo vediamo. No, ma dico, il canale ce li ha. Hai copiato? Ah, sì, che va a problemi della registrazione. 40 canali normali già? Sì, 40 normali. Ma stavo uscendo poc'anzi? Sì, stavo uscendo. Ma non so dove sta correndo l'attaccato. L'altro, non quello che mi ha dato Natalino, c'è l'altro attaccato. E lo metto allora, se vuole, mi dà del cucinello. E ricca, guarda, non serve a niente. Fatto una spesa proprio, va. 24 euro, non voglio avere un cazzo. Mi stanno arrivando la PlayStation e poi non posso funzionare la baracchina. Ma forse la baracchina voglio una 10 ampere in su, 10, 15, 20 ampere. Cazzo, ma chi se così in base, non voglio avere un cazzo, devo così. Le date malattie dei bicinesi. Aspetta, mi fa che metto quello che mi ha dato la tarina a vedere se cambia. Aspetta, la finita, metto la luce che non si vede, un volume H. Allora, uno c'è scritto AM, FM, l'altro c'è Scan, lui c'è DV, DV dobbiamo però, NB, lui, Angel, e poi l'altro, vabbè, HLO. Comunque, già per dire, vai. E come succede? adatto non mi prende, no? Io ti prendevo lo stesso, già. Ah, lo stesso me lo portava preso. E sì, te lo porti appresso. Cazzo. E cosa ci bisogna fare quando è così? E quando è così, cosa bisogna fare? Mettere una bella antenna manica, comprarsi un tile le mille e pompare. Ah, schiappa, schiappa. Intanto io da questa posizione li faccio schiattare forte. Fai schiattare ma te se non scavali da più. Beh, arrivato a un certo punto. E che non fai le manca alimentazione, se noi abbiamo fatto da un centinaio di volte, vedi che avevi fatto la copertina. Ah no, ehi vado da, me lo prendo uno grandetto, dai, uno 10, un 10 ampere. No. Tanto si trova, no, Pierpa? Grazie a voi, eh. Basta prenderti quello, ho preso io 50 euro, 25 ampere, di 25 ampere normali e 30 di picco. Così mettiamo un po' a posto le cose. Ma sentite, Matteo, se non ti va a Nerone che va a 220, e così non c'è problema. Così almeno la smettono, no? Capri 2, avanti, per favore, questa parte. E sei in basso adesso, Capri 2, per favore, cosa nel microfono, non schiacci bene tutti i ti. E con questo stai facendo bene, ah, la radio 5, perfetto. Sì signora. E non me lo ricordo quanto mi arrivavi, no, se no te l'avrei detto. Però ti ascolto bene in radio, guarda, bellissima la radio. Ti sei abbassato, capito, ti sento, ma ti sei abbassato in radio. Capito? Mancherò l'allenamento che non toccano bene di quel microfono. Ah, va bene, perché ti sei abbassato e molte volte non esci in radio. Sicuramente sono quelle lamelle che c'ha quel microfono lì. E tappa là. Io sono con Nicol adesso, sempre. Non so come ti sto arrivando in radio. Però sei uscito o no? Prega, te ne dai, controlla quelle lamelle così, perché sicuramente sono quelle che non fanno contatto bene e non ti fanno uscire in radio. Ok? Avanti, Gianni. Sì, scusate quello lì. Se non sembra un microfono amplificato, come sembra un amplificato? Sì, anche da un microfono originale del 5024, che c'ha quel compressorino, c'ha lì. C'ha quelle lamelle, sicuramente non gli fanno contatto perché fa tac, e perché va lì quello lì, no, è di quelli antichi. Vedrà, già le controllerà, le pulisce, vedrà che già dopo già esce bene. E ha sistemato già alcuni di quelli che aveva, che funzionava, che li ha fatti funzionare tutti. Meglio così. Una pacchetta, ti passo il pirino. proprio sai quell'apparecchio, eh. che sensazione è in corso. Che fanno? Ehi, dimmi. Sì, dimmi. Sì. E forse lo ho sentito. speciale, cioè se compro le Duracell e gliela cambio, capito? Ciao, mi sa 6 o 7 punte, buh. Ah, è vero. Visto, se no lo rimetto ben volentieri. Sì. Adesso non me ne ricordo. Sì, bravo. C'hai i cartini per andare avanti e dietro nei canali. Capo. Adesso me ne ero dimenticato. Pronto per essere piccolino con il microfono. Già è bello, dai. E invece con la BM è attaccata al comparato. mi sembra abbastanza la cosa. Adesso lo stavo prenotando con la BM. Ma che ci porta? Guarda quanto è quella del tetto. All'87, attacca. Maledetta primavera, c'è. Adesso me ne sono accorto. Aspetta che cambio... Mannaggia, la marina. Ah, con questo è quasi 9 più 5. Però è un più basso qua. Sì, no. Sì, sì, sì. Che sta arrivando Santiago Nova, è qua, penso di dire che... Senta, e non ci posso nulla ancora, senta. Ehi, non acciaio! Sento mi blasco, vai! Non passa. Non fate le gare, fate la brave. Mamma, sono liscio, adesso lo passo. Così almeno non vi lamentate. Ci sei abbassato il radio, parchetto. Adesso? No, passaggio più lungo. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Adesso già sei tu. La Barocci. Per me il parchetto sta toccando qualcosa di strano, eh? Parchetto a me mi sembra che sia cotto pratico. Poi un fiaschetto è già terminato, stiamo scappando l'altro, eh? Benissimo, sto arrivando! Andiamo a toccare in cuoce la parigi. Ui, arrivi che bene chi di due, soia, natalizia. Dentro al forno ce ne mettiamo, eh? La pietra dentro la zinea e dopo da dietro li faccio il lavoretto. Bisogna mettere le ali, come si fa a passarmi 8 metri? e mezzo strada sono andata lì. Allora, ordine del corpo, cosa mi dà a fare, Ghiso? Ma la pensava di dire questa cosa, abbiamo una sbagliata a faccia. Ghiso, tu dici a me, delinquente, caro. Ehi, ti dico quelli che sono, so. E questo qui è censurato a quanto pare, cazzo, boh. Ehi, ma la prende buona, mi sta trovando arrestato, ui ui. Sarà ancora in vettura. Sto dicendo, l'hanno fatto vedere, stavo facendomi qualcosa da mangiare, no, poco fa, quando sono andato in bianco. E ho acceso il televisore in cucina, a cazzo, e mi ha fatto vedere in qualcosa. Che vergogna, cavolo. Ma vergogna sì, cazzo. Non lo so, qui, ma in un paese del terzo mondo, cazzo. Non so cosa dire. Una persona ci sente, che cerca di fare del bene, cavolo, e viene anche preso a sbagliate, è una cosa assurda veramente. A che punto stiamo andando a finire qua? Ma secondo me la colpa di quello della sinistra, perché vedrai che facendo così si danno la zappa ai piedi. Invece di contrastarlo politicamente, facendo le cose che devono fare, cosa cazzo... Guardate le cose, secondo me sono andati a fare i piedi, poi verranno loro. Ah, quello è poco ma sicuro, mi sa. Quello sta guardando già la zappata, la zappata ai piedi loro stessi. E allora, ma che male che si viene a computare così, fatto. Magistrati, ecco, tutti i funghi ci verranno, cazzo. Poi, aia. E con tutta la roba che sta facendo. Beh, vedi che sono curato e massa, ma devo cercare di operare. Invece la sera l'operare cazzo curava, ma a settimana ci mangiavano i tutti. Per carità, guarda, vanno schifo a farlo. Poi dici di male, male a Edo, ma sta pensando prima, o io, ma carità. Edo e l'altri, a chi non so solo che si disagginizzano, sono più l'altri, ci hai mangiato tutti, tu più pulito che la rogna. Infatti, Natalia, sono più pulito ma la rogna vero. Ma cazzo, i bimbi sono i sindacati che hanno guardato tutto. Il 40% all'operaio e il 60% ai padroni. Sono tutti venduti, sono lei e io, ma io mi abiti qua, se no mi arrabbiati. È vero purtroppo. Sono la massa di tutti i corrotti e buttate. Io non sono né di destra né di sinistra, non me ne sbatte niente della politica, però guarda, quello che è giusto è giusto. Esatto, quello che è da dire si deve dire, punto e basta, e tutte le siamo lì a girare, tanto mi fila ieri, a me le fila con l'altro. Infatti, e chi ci sono girendi, pensa che guarda, arriveremo a un punto, non lo so neanche io, a tutto. Natale, è così. Guarda, qualcosa deve succedere, qualcosa vedrai che succederà. Eh sì, perché non è possibile continuare così. Ha rimuovato in un paese del terzo mondo, non sembriamo neanche in Italia, no? No? Cercare di raccontare una cosa e da voi non pure le tasse niente, chi ti passavano e curavano in una ragione di racconti a piedi. Allora, non aveva detto gratis, sì. Sì, vabbè, vero travaglio, lo dico voi, però non curavano le matesse, non pensi, né più né meno, anzi, forse curavano di più. Mi sei abbassato le radio, a tu. Abbassato mi trovo. E mo? E adesso? È lo stesso. Ma sarà l'alimentatore, no? No, l'alimentatore, se chi si sta girando io, non può sì. Forse ti volevi avvicinare il microfono. Ah, oh. Avanti, come siete me? No, sempre in basso, sì, mi sali. E tu dovevi far vedere questa macchina. Sta facendo di cosa, sta cosa, bu. Prova a vedere. 1, 2, 3, Natalino, mi senti? Sì, sì, adesso senti, dai. No, se no, ce l'avevo un po' distante il microfono, vai. Stiamo mangiando, sta crescendo bene adesso. Perché stavo parlando un po' distante dal microfono, capito? Ma la gara. Bene, bene. Così è Natalino, così è. Dimmi, Gianni, c'è una radio spettacolare, ma il microfono amplificato. antichi non aveva neanche uno. Io ci chiamo di piatto davvero, mi hai curato la macchina che so. Non lo volevo quella, c'era la gomma, tutto quanto. La tappa cromata sua, me l'hanno rubata, me l'hanno trattato proprio un gol, lui fa tirannino. Me l'ha fatto anche l'anno nella macchina. Thank you. almeno per parlare di tutto, ho capito, non è che come radioamatori che parlano solo di roba tipo antenne, ne parliamo anche qua, ma poi puoi anche parlare di altre cose, non è che puoi andare sempre di questo. Thank you. l'altro era quell'altro che ti piaceva, la radio, che era un microfono normale, era la marca del tuo ricevitore. Ok, va bene, avanti, perfetto. Caparoggi, allora già, grande. Via, via. Allora mi fa che... Perché cosa è successo? Vento, se sto facendo bene. Ma la compressa c'hai, troppo compressa. Come mai? No, sto usando quella, no, perché si è bloccato lo smitter. Allora sto usando la radio. Falchè, deve essere toccato qualche cosa per sbaglio. Boh. Mi sembra strano. Infatti. Vabbè, dopo la... si controlla. Va bene, bene. Basta guardarlo a lui. Ma tu non è entrato. No, oh, no, non è entrato. Ah, io pensavo che entrasse, invece, invece. Cappa, cappa, cappa. Va bene, piano cappa che la guardiamo, là. La guardiamo di nuovo, vediamo un po'. Tanto vuole passare un po' di spray per contatti nei corsi. Ho guardato per quelle manopoline, ma adesso ne non è una, ce li ho ma non ci vanno bene. Vabbè, no, non è portata, forse me ne ha buscato un altro amico e me deve portare. Va bene, allora. Stava a capa, vai, fai girare per l'attarino. Esatto, vai, avanti, avanti. Andà bene, bene, va. Lo devo ci di via. Adesso lo spengo questo computer. Adesso un po' acceso qua, ti farà di... Io non ne ho acceso tutto il giorno, invece. Io stavo scaricando quello, ma adesso ho messo a scaricare là, mio figlio e mi studi. Cava, cava. Avanti, capi. Forse non ho sentito a K2, scusatemi. Figurati. capo, lo senti a bocca. Impazzire, non riuscivo più a chiudere. molto male, là. Io, no, io già mi sono fatto male più volte con queste cose qua. Oggi mi ha girato quella foto, mi sono fatto male, raga, ma sono stato troppo. Poi meno male, con molta gente, Antonio e Pierpaolo sono venuti a dare una mano e più persone siamo riusciti a farlo, dai. Facciamo sì, tra poco feste di Natale, quindi se c'è fortunato anche lì. Ho già avvisami, perché io la prima non ho sento, quindi mi deve avvisare, perché sul guarrame alto. Sta parlando. Yeah. 30. Aspetta, Fabri, ma posso guardare la porta? Hai capito, vabbè? Sono di quelli un po' vecchiotti come telefonini, vecchiotti. Non so quanti anni avrà questo corso. Ora 2 anni, dai. Thank you. sto fischiando? Non c'è problema. Radio forte o la devo abbassare? No, la lasciala così che va bene. Hai capito, fa bene. Su quello che usano i 10 metri c'è un amplificatore slitto. E qui lo usano anche i 11. In automatico, e va una cordata automatica. E mentre che invece no, non c'è niente attaccato. Ma come ho fatto avanti una parte? Questo è il 440. Ci sentiamo, siamo in America, ciao Luca e anche a Franco, buonanotte, ci siamo tutti, avanti Claudio, sempre per girare. Ciao Fabi, quando noi siamo qua non c'è problema, io sono sempre qua anche l'ascolto su 35, non c'è problema quando voi, ciao, buonanotte, grazie per essere entrato, vai Franco. Ciao Fabi, buonanotte, buona giornata per domani, ci sentiamo alle Brusche. Vai Lucas. Ciao Fabi, buonanotte alla Brusche, ti sentimo? Franco, dai gas, con la radio, dai un po' di gas, segnale buono, ma la radio è un po' molto scarsa, devo stare questo cazzo di volume a base, alta, base, non credo, c'è. Se lo apro per ascoltare a te, devo dare una sempre il Claudio, se no mi spacca tutto qua. Ma l'azione mia è diversa da quella di Claudio, anche se sollevo, quanto sollevo, guarda se va bene, ora, ora, mi senti? Ora. Ma te ne sgrato? Perché sono levato troppo. Ma, un po' meglio, fra, perché al secondo mi devo avere una vostra cacchio di potenziometro, solleva, basta, solleva, basta. Mi sente più basso, questo è il microfono normale. Perciò mi faccio tutto là? Il microfono normale l'ho messo così, non ho bisogno di fare grandi manovre, non va bene così. Non voglia, di lusso qua, di lusso. E poi non è che... Ma è l'altro perché non lo puoi mettere a basso basso, 60. E come lo metto 60 basso basso? Sei 60 non è regolativo. Cosa regoli? Con 60 anche se abbassi i micchi che inevitano è sempre forte la modulazione. Conviene cambiare il microfono sempre. Anche se avere un piccolo modulazione è buono, quindi la modulazione è abbastanza, sono a 10 cm dalla bocca, è abbastanza buona come radio. Tranquilla. Però non vuole essere tranquilla, tranquilla, tranquilla. Cappa, no, ripeto, per me non c'è problema, è Franco che a secondo devo abbassare, non lo parli tu, sennò vibra la colonnina. Sì, quanto poco ci andiamo a nanna domani lunedì. C'è una giornata abbastanza grande da fare. Ho fatto fare tra tutti gli aggiornamenti stasera, tutta la sera per gli aggiornamenti. Tutta la sera facendo aggiornamenti, ho fatto anche la pulizia. Allora c'è sempre a 54-56. Beh, non ha trovato di GPS con Peter Bull. 54-56 cosa? Di velocità. Di connection wireless. Yeah. No, quella è giusta. Ma gli altri giorni scendono a 36, 34, 28, 30, sto parlando di mandarino, cioè questi giorni stanno andando sempre a 54, 56, non sarà più 56, però non scende neanche sotto a 54, quindi. Ma oggi, come l'ho acceso, mi ha dato la persona privata, appunto, aggiornamento disponibile e tutto, ho cliccato e ho fatto tutto. Sta tutta la sera facendo gli aggiornamenti e poi mi sono fatto gli aggiornamenti, ho fatto una bella pulizia del disco e già va bene. Sì, gli aggiornamenti fai fare tutti. Ma infatti è giudizio che faccio fare il ciclo, gli aggiornamenti bisogna fargli fare, quando ti dirà bisogna fargli fare, se no la rottura di fare. Io non ho messo niente, perché non posso mettere nulla. Tutta la moneta che mi mette. ma nulla, non so perché si riempie da solo questo disco, io non ci metto nulla, non faccio neanche musica perché non posso mettere emule per scaricare musica, perché non c'è, no, perché non c'è ancora spazio. E adesso sarò su, scendi su, sarò fischiando su. Tira, sì, leggermente sì. Stavo dicendo, vabbè, ce lo cambiamo, là. Adesso vediamo, facciamo andare qualcosina. Scusi, ma metti, mi dispiace, cazzo, non so come posso mettere musica. Vista, non mi piace. Tu mi dirai, entro un po' e riuscirò a vista. Ma adesso mi tengo... Ma se come lo cerco con XP lì, non ne ho un'idea, fra. Lo cerco come l'acqua, lì su Paltanto. Perché è quello che va meglio. Vedi, se tu sei un tecnico lo sai, vista, va a secondo, cioè, se, ma per esempio mette musica con vista, ok, a secondo c'è gente che la mette, sembra, sta mettendo una, come si chiama, con la radiolina dei cinesi. Addirittura. Sì, cosa stai dicendo? Quella moscia, faccio con vista, con l'XP, come la vita? Ecco. Ok. Allora Luca, fa sentire una melodia come Cristian, che se vuoi rimanere con una bella città, ma la telefonai, così è complicato il telefono. Sì, claro, è una bella di garanto. Ma è complicato, io non ho mai usato questo qua. Lo vedi? Batteria a carica. È un po' bugia, dai, postazione. Adesso le famiglie le ho trovate, le ho cambiata. Adesso non riesco a trovare la... le sorelle dei messaggi, perché quando arriva il messaggio non mi avvisa. Fra, ma poi Luca non ha perso dei messaggi, non ci credo. Sono telefoni particolari quelli, se non li ha mai visti, cioè se si è abituati ai tradizionali è un casino. È un po' sì, no, veramente la prima volta l'ho provato con il telefono e non lo usi, è carino, non è che sia avuto da tre modificato con la scheda normale della Vodafone, cioè non so se si è modificato un altro così, ma adesso te lo regalo perché non riceve messaggi, ma io ho notato che messaggi ne riceve. Beh, non sono cioè, messaggi bloccati, una cosa del genere. Ma io non ne prendo, perché io faccio partire 404 della Vodafone e mi arriva il messaggio. Oppure se tu mi chiami e rispondi aspetta, il messaggio mi arriva lo stesso. Poi c'è il telefono, non c'è nulla. Chiama benissimo, sente che è la caronata, guarda, benissimo, bene. Solo che è un po' un mattone, diciamo, è grandetto come telefono. Che faccia telefoni molto leggeri e che fa un bel massicci e vabbè, ok, pippa per me, pippo, vai fra. Sì, campagnaccio fa un po' da freddo, prendemene una che ci devo giù. Il problema di quei telefoni, quelli modificati, lo sai cos'è? Che non ricevono gli MMS. Cosa me la puttana gli MMS? Io c'ho i messaggi tradizionali, cioè quelli normali, ma SMS. Guarda, e li chiami, poi adesso non me ne frega niente, fra. Tanto io ormai che... cosa... non fa SM. E non pugi. Infatti tu adesso non è mio, portato fra, quanto lui tu. Cioè, lo sai manovrare bene. E poi piano piano, vedi, adesso riesco a trovare la sorella dei messaggi, perché non si sente niente quando arriva il messaggio. Quindi vabbè, se capita poi me lo faccio un salto, che te lo porto. E mi dici cosa c'ha, perché secondo me non c'ha nulla, ma l'ho aperto, l'ho pulito, quasi la chifu, che stava a casa sporco dentro. E l'ho richiuso bene, tutto a posto. No, ma è una qua, ci rigiocare un po', poi già è tranquillo. Sì, ma infatti sono giocato l'altra mattina, però poi ho detto che erano mezzogiorno e mezza, un po', ma qui già l'ho capito, non ho utilizzato. Sì, sono un po' telefoni particolari qui, ti ripeto, appena ti spegni un po' mano qui te lo giochi. Sì, non è un telefono che fa per me, non l'ho fottuto, prima l'ho fissato con i telefonini, fra. L'ho fissatissimo, adesso c'ho questi due, quel motore famoso, quando mi ha avviato tu c'è la centrale auricolare, fra. Così, c'è crepato così di botto, infatti ho buscato in uno, vedi la centrale auricolare, si risalda e si mette lì, peccato, si va a fare il cassetto, e più con questo Samsung. Non va più che bene, guarda, no, cioè mi ha fatto venire qui, mi tira la linea un telefono, c'è gente che fa, che spende un sacco di soldi, telefonini così palmati, tipo questo, touch screen, che se ne ha fatto. Se come me, io basta che riceva e mandi, poi boom, mi ha fatto più nulla. Guarda, ti giuro, ma credimi, io telefonini, no, ne ho avuto tanti, però, quelli centinaia di telefoni che ho avuto, questo qua, questo me l'ho regalato, è l'unico telefonino che ho sentito bene, proprio, guarda, perfetto, veramente bene, quello chiaro, poi ci questi tempi di motore, sai come sento tutto le bombante, questo Samsung idem. Ma si sente una belletta, però ho detto un po' grande, è un po' pesantuccio. Questi sono i telefoni che usano di solito chi fa la necessità di memorizzare, come si dice, appuntamenti, schede, queste cose qua. Poi c'è ancora, cioè c'è appena 2 anni, forse c'è anche lo scrittore. Non lo so, questa è la Tesla. Vediamo un po' che modello, aspetta. No, non è che io lo sto qua, allora dico che modello è. No, c'ha, ah sì, c'ha la televisione, poi qual è la chiave della televisione, la TV, sì. Videochiamata, allora, aspetta. Ma cacchio è. Qua c'è cosa non è una per mettere la SIM. Vedi qua. Addirittura ne ha due. Fra. Da mettere la memoria. No, c'è due per mettere il SIM e una memoria. No! Forse Jimmy. No, ma questo è un cazzo. Non ci si dove modello è. Comunque molto nuova. C'è la batteria un po' grandicella. Allora, Motorola, vediamo un po' se non freddo, no? Non si vede il modello, non so che modello è. A1000, Motorola A1000 fa. E dopo appena finito il computer lo controllo su internet. Come sono per me più di 3 anni, o di 2 anni. Questo ragazzo dice che da un po' non lo usa, infatti non... Quando lo posso caricare, lo accende, si spegne, se non accendeva proprio, accendeva poi si spegneva. E vediamo la batteria che la carica. Pensando che sia atteso. Pensando. Ma se non si spegne, guarda. Che palle. Cioè, lui tra la batteria si accenderà solo. E vabbè. Tanto lo faccio vedere, fanno queste capitanole, uno di questi giorni. Faccio un salto. Accensione cosa c'è? Faccio il sprint. No, tastino laterale. Tastino laterale. Tastino laterale. E per spegnere lo stesso. Sì, sì, sì. Lo clicchi verso il basso, si spegne. Ah, ho capito. Ma ho capito se voglio si è acceso, ecco. Si è spento. Ma io non capisco, fra, di staccato la batteria, il telefono l'ha spento, io l'ho rimesso e si è riacceso, perché? Non si dovrebbe accendere. Cosa? Non si dovrebbe accendere. Forse mai c'era andato inserito così in basso a basso. E vabbè. Ma c'è un momento. Sta col carico la batteria. No. Andiamo a andare, però mi viene regalato ad accuramento. Allora, praticamente è stato così, facciamo c'è questa pipa che entra su, come si chiama, da noi, su Pantani, no? Ma mi dai il carnetto, eh. Io i computer non li comprendo, lo sai, ma qualcuno già lo so. E intanto gli ho messo, gli ho caricato, gli ho messo Pantani, gli ho tutto installato per bene, le spunte, poi gli ho installato Skype. E poi insomma avete cantato le musica e questa cosa pensavo non so come ricambiare favore boom guardami guarda, ma non ci sono problemi e, insomma quel figlio un giorno lo stesso è sul computer che stavo sistemando non so che cosa forse Skype perché gli entrava questi qua e io provo le palle boom. C'è chi fa ricapo, il mio 69, senti proprio, fuori era normale, e gli mandavo messaggi un po' sporchi, dai, diciamo, però gli ho bloccato la vista, e lì la vista secondo me ha ringraziato, non so come ricambiare, veramente, quindi, poi c'è anche il figlio di Roma, ascolta, tu, c'ho un telefonino, un po' male, non funziona, cioè funziona sì, però non riceve messaggi, i messaggi bloccati, E te lo regalo pure. Fammelo. Così, mi è stato regalato. Cioè, perché quando fa la moglie e lei non sapeva come riprendere il favore, allora mi ha dato molto cellulare. E che andava? Meglio di niente, no? Ma frate, intanto la mentalista, c'è io i telefonini. Ma io che lo odio il cellulare, lo odio. No, non mi piace. No, io se ci vuoi muoio. Vabbè, per ti sei che ti regali a casa. Vabbè, anche a me serve, da una parte sì, ma da una parte non sono di balle. Vabbè, dipende. Ma non te ne fa nulla, non è sistemata. Oh, negativo qua, infatti. Adesso vediamo. Adesso lascio passare Natale, per il momento lo lascio così. Sto attento, esco basso, così evito di spaccarlo ancora di più. Poi quando c'è 5 minuti che fa tempo bello, la cambio. Sto detto, ci siamo una mano, fa uno squillo, e poi mettiamo una mano. Se non usa come me l'ho preso, ci siamo una mammuta laggiù. Quando vuoi fra, vuoi far sapere. E poi poi vado a toro. Una mattina la domenica così. Anche un sabato, non c'è problema. Qui già, noi andiamo a terra, vediamo come cosa c'è. Fino alla contromattina. Così. E poi quando hai magari un attimo di. Insomma, un po' di tempo ti piazzi l'altra. Quando vado a pietra. Guarda senti qua un po' di bombardati. Poi quando si distrugge c'è la via luce, ci cagli voluto mettere la rampi. Faccio così infatti, no la manto qua ce la tengo, serve troppo. Ma dobbiamo mandare per quello. No vabbè, però io che casino, facendo la Sardegna, da piena di carrette e picchinita. Ma è suonato la testa, aspetterò la suonare. No, lui, sto, c'ho altri, no, sto facendo altro. C'ho lavoro a casa e mi sto controllando quello, quindi non c'ho tempo, poi mi sto sistemando campagna e poi mi sono dovuto mettere a arrangiarmi con la rete perché cazzo mi hanno sbranato in un vulcano e ho dovuto fare tutto in fretta. Cappa di febbre, bisogna sistemare le cose, sennò è un casino. C'ho altri valori, riguardo i dati, perciò. E così. E vabbè, piano piano. Comunque ripeto, se ti serve una mano, non ci sono problemi. Mi fa uno squillo, vengo e ti do una mano. Vieni, mi prendi, ci andiamo e ti do una mano. Lo sa, sei tu un'altra voce. Una mano, la un'altra, e tutte e due lavorano il culo. Cazzo, che bella. Davvero, davvero. Davvero, pergolo. Spalvie. Ma se no frate prendi la roba vinta come preso io la verticale e la lampina matta e sta andando la piazza d'estate e questa con la piazzata d'estate no? Ma puoi mettere così alla rifugia questa 980 euro l'antenna quella fa tutto anche di 11 metri perché c'ha l'accordatore lo stilo che accorda quindi allunga, accorcia da sotto è una direttiva verticale. Quella è risolto il problema, se non metti la GPC, te l'ho detto, funziona bene anche quella, te lo devi fare chiacchiere, cosa c'è l'ultima posizione, a me non cambia niente, anzi, passo in DB di guadagno alla grande, sia in trasmissione che in ricezione, è una bomba e tant'è, ma ci vogliono almeno due o tre persone, tintoni o Antonio Bio che fanno. Ci vanno ai conti che ha fatto Antonio ci dovrebbero andare 26 tiranti in rame, cioè 26 radiati in rame. Se non hanno nulla so. D'accordo, dicendo, non è una cosa che posso fare da solo. Vanno tutti tirati, tesi, qua. Tipo quello che c'è Antonio Vai giù e viene a quello, diventa una cosa del genere. tutto radiale. Se vuoi uscire bene, devono esserci tutti radiali, altrimenti sì, lavora bene, ma non guadagna come deve guadagnare. Questo è come tanto io. Perciò, ma ti aspettiamo un tempo buono, poi con calma, si toglie la mantova e si staffa proprio la mantova che le staffe nel palo che c'ho io, è un palo con le quattro palle. Capito? Perché i radiali non se ne possono mettere, cioè i tiranti non se ne possono mettere. Quindi, siccome io di tiranti non ne ho bisogno, per quello è un'antenna che è alta 12 metri mi pare, però è fatto in un modo particolare, dopo il vento non la spezzerà mai, piega ma non spezza, come quella la 510, un materiale del genere. Però sotto dove arriva la corrente per fare lavorare gli stili, da lì devono partire tutti i radiali in rame, quindi immaginate tu, tanti radiali limoni, ma ce n'è lavoro, vanno tutti tassellati, tirati, tesi, minchia papà. È un po' di casino devi fare, ma poi la scelta non ha tocchi più. No, ho detto anche Walter, l'antenna interna quella, garantita al 100%, in garanzia, e il vento mi pare che ci sia scritto su internet 120-130 km/h di vento tiene, quindi non c'è problema. Poi fatta in un materiale plastico, un PVC duro, capito, tutta. E come rivestimento all'interno c'è questi radiali che sono comandati dal control box da giù, elettricamente, quindi non è un'antenna da giocare, perché se sbagli lì sfasci tutto, perché costa 980 euro più IVA. Vedi che pensano quasi tutto. Ciao, fate attenzione, buonanotte. Ciao, faccio sentire, fra, uno di questi giorni. magari, vabbè, domani no. Ma se vediamo martedì o mercoledì, dai, devo fare una commissione, non posso. Già ci sentiamo comunque, voi si portano le vostre cacche di telefono, dai. Anzi, ti chiamo io per sapere per, se lo vuoi fare questo cazzo di cosa, di quello che devi fare. Mi dovevano portare mi hanno portato un disco la sua settimana, ho fatto delle prove però non mi piace, non mi piace questa fiancia. Beh dai, aspetta, ti faccio una chiamata e poi mi fai sapere, dai. D'accordo, ciao, buonanotte. Ciao, sono Lucia, ciao Claudio, anche a te, ciao, a domani.